qui finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Le frequenze di Radio Onda Rossa, ci abbiamo messo un pochino di tempo perché stavamo preparando tutti, andiamo velocissimi, quindi sottoscrivete per la radio come avete, aspetta eccoci, come avete fatto fino ad oggi. Vai Aldo, dice 26 per 1. Marco dice cacciate i soldi per la radio. Sottoscrivete per la radio 61 80 40 01, numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 00185 Via De Volci 56 Roma San Lollo, oppure sul sito www.ondarossa.info ci trovate tutto, oltre alla possibilità di ascoltare la radio in streaming. Onda Rossa @ondarossa.info, la casella di posta elettronica della radio, e poi 25 o'clock 25 scritto al numero @ondarossa.info, invece la mail della trasmissione del delirio che state ascoltando e che avete ascoltato e che ascolterete ogni mercoledì sera, che si rispetti. Già avete sentito la voce 0649175 0649175 0, da proprio da DJ veloce, mamma mia. Vai piano. No, perché volevo introdurti. Quindi il delirio non poteva essere con un essere assolutamente delirante che ci ha già accompagnato in qualche serata qua in radio, e che ce lo dirà lui chi è, un personaggio comunque che ci siamo portati, perché poi gli dai la carica, lo cominci a far partire a parlare e lui può andare avanti anche per un paio d'ore come il coniglietto da Duracell. Sì, esatto. Poi a un certo punto lo fermiamo quando dobbiamo andare a dormire, non vi preoccupate, però è assolutamente eclettico e capace di spaziare dal mondo dei cartoni animati fino alla geopolitica, fino alle poesie di Bondi, alla geopolitica. Insomma, abbiamo fatto quattro chiacchiere prima,

Allora, perché iniziare con Festa d'Aprile? Avremmo voluto, secondo il tuo desiderio, scegliere un'altra versione, no? Sì, il coro delle mondine, perché io sono un appassionato di vecchi canti popolari, ho dei dischi allucinanti, non solo dei canti popolari, ho dischi allucinanti di tutti i tipi. Ho anche la prima stampa dei Frankie Ghost to Hollywood. Oh, vedi. A proposito di quello che dicevamo prima di Vladimir Luxuria. Frankie Ghost to Hollywood sapevano suonare. Certo. Differenza di Luxuria che non sapeva manco cantare. Va bene. Quindi. Okay. E poi mi parlavi pure di un'altra versione, invece di una versione veramente lo-fi che andrebbe di un vinile particolare proveniente da... Ho un vinile registrato in presa diretta assoluta degli anni 60 dei canti popolari della rivoluzione culturale cinese, che a sentirlo sembra che la Cina sia un posto rumorosissimo. Venti si sente solo e basta. E i canti poca roba. I canti no, in sottofondo si sente appunto, uno ha l'idea che magari ci procurerai anche questo materiale in un futuro, quando vi rifate i piatti prossimo. No, i piatti ci stanno. Funzionanti. La testina è un po' una zappa, però penso con quel tipo di qualità non dovremmo andare troppo a inficiare, insomma, sul suono che manderemo in onda. Non perdi le sfumature. Guarda, allora facciamo una cosa: aspettiamo il trasmettitore nuovo, che te sei uno dei, tra l'altro, di coloro che più ha premuto affinché la radio si dotasse di... Per necessità, perché sennò mi tocca sentire gli speciali sul Tamagotchi di un'altra emittente di cui non famo il nome. Non facciamo il nome, che però si sente sulle strade che frequenti, che diciamo, frequento. Negli spostamenti, casa, lavoro, eccetera. Allora, va bene, dicevamo il coro delle mondine, non ce l'abbiamo trovato, però è Festa d'Aprile. Di cosa racconta questa Festa d'Aprile, ovviamente? Diciamo che è l'altra faccia della medaglia dell'Italia. L'Italia ha tante cose brutte, c'è una bibbia di cose brutte da fare, però diciamo che Festa d'Aprile racconta una delle pagine belle dell'Italia. Noi siamo pigri, noi siamo opportunisti, noi siamo... non so che cosa siamo, però siamo anche persone che a un certo punto, quando vedono schifo, troppo schifo, forse troppo poco spesso lo facciamo. Troppo poco spesso, però quando la merda, come posso dire, merda in radio? Assolutamente. Quando la merda tracima dalla tazza del cesso, dicono: no, fermi, io oltre a questo non vado, certo. Fermate. È sorprendente, bisogna purtroppo riuscire a starci in questi momenti, non sempre, sono molto rari appunto. Sono molto rari, ma quando succedono... Insomma, sono determinanti. Forse quello appunto del 25 aprile 1945 è un episodio quasi unico, insomma, in tutta la storia, perlomeno dall'unità d'Italia in poi, insomma. Diciamo che uno dei motivi per celebrare il 25 aprile dovrebbe essere tutto l'anno. Per celebrarlo è proprio per ricordarci quel momento e dire: oh, però, se vuoi, ci siamo capaci a farlo. Certamente. Lo vedi? L'hanno fatto, sta là. Quindi, più che celebrare una data passata, secondo me celebra una prospettiva. E questo è assolutamente condivisibile. E noi andiamo avanti. Sì. Rimaniamo nell'ambito dei canti popolari. E lo facciamo con due versioni, però ovviamente non come questa, ma in cui appunto delle formazioni più moderne hanno cominciato a cimentarsi, come avete fatto anche voi ancora più tardi, con il canto popolare, rieditandolo in forma attuale con gli stilemi, diciamo, di come si suonava allora, insomma, almeno in questo caso. Qui stiamo parlando di un vecchio disco che raccoglieva sempre del consorzio produttori indipendenti, si chiamava l'etichetta che avevano fatto i CSI all'epoca, era Consorzio Produttori Indipendenti, Sì. Anche se il disco, quello originale, sì, Linea Gotica, mi sembra che fu l'ultima uscita da Dischi del Mulo per la CSI. Forse sì. E vabbè, poi ovviamente c'era dietro una grande etichetta che faceva la distribuzione. E iniziava così questo disco, erano gli Ust Mamò e questa Siamo i belli della montagna. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Nemico, fuggi mondi per l'aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglie, temprammo i muscoli e i cuori in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, istanti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiano della folta ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amore per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Sarà la legge dell'avvenire. Sarà la legge dell'avvenire. Allora, mentre rimettiamo da capo questa seconda versione di Siamo i belli della montagna, proprio un po' di quello stavamo parlando adesso fuori onda, perché ce l'avamo preparati da, penso, settimane. Sì, facciamo sta roba, eccetera, eccetera. Poi sì, prepariamo, che te porti la scala. Non abbiamo fatto nulla, nulla. Aspetta, vai, che c'hai? Ci sei pure te? Però poi, improvvisando, invece le cose vengono al solito molto meglio. Quello che dicevamo, appunto, era, ascoltando proprio i Siamo ribelli della montagna, di come poi fu, almeno da una piccolissima ricostruzione storica che facciamo noi assolutamente senza fonti precise, senza citare, però ci immaginiamo, e comunque da quel poco che sappiamo, appunto, che si trattava in realtà di gli 80.000 della resistenza in armi proprio nell'Italia di quegli anni. Si è compreso tutto, proprio il CVL, il Corpo Volontario della Libertà, che era anche oltre le brigate partigiane, anche gli sbandati. Sì, sì, sì. Poi si arrivava a 300.000 secondo certi numeri, con tutte le staffette, con tutta la popolazione, diciamo, che comunque ospitava partigiani, eccetera, eccetera, ma non era in armi. Ecco. Sì, no, poi c'era la differenza tra partigiano e patriota. Sì, sì, sì. Partigiano è che era attivamente in armi. Certo, certo. Patriota era il fiancheggiatore. Che faceva parte delle azioni di fuoco, comunque era connesso a queste. Quindi, parlando di queste cifre, la maggior parte è giovani o giovanissimi. Tant'è vero che moltissimi partigiani sono ancora, alcuni sono ancora oggi vivi e moltissimi son vissuti nella nostra, qualche anno fa, insomma. Quindi noi abbiamo vissuto abbiamo avuto la fortuna di aver conosciuto molti partigiani nella nostra da ragazzino gioventù. Io conobbi uno che partecipò sedicenne all'insurrezione di Porta San Paolo. Certo, certo, certo. Quindi abbiamo avuto la fortuna, benché appunto poi vivessimo la nostra adolescenza, quando uno si comincia a occupare di politica, eccetera, negli anni 80-90 e c'erano i partigiani che fortunatamente ci raccontavano appunto molte delle loro storie, dei loro racconti. E devo dire una cosa, poi non so se te... I partigiani e le partigiane. Le partigiane, ovviamente. Anzi, se mi consenti, voglio approfittare il 25 aprile per avere un caro ricordo, sì, di un'amica che non c'è più, una compagna, una donna, una partigiana, Bianca. Volevo solo ricordarla. Sì. Gli ho voluto veramente fra bene. Fra i tanti e le tante, senz'altro, appunto, ognuno ha lasciato poi un pezzo di cuore rispetto a queste persone. Che proprio questo volevo dire, cioè erano persone che se la sentivano, diremmo adesso, se la sentivano calla. Nel senso che in finale, quando hai fatto una cosa del genere, hai ottenuto un risultato di questa portata, sei riuscito in qualche maniera a cambiare la tua vita, la vita di tante persone, a cambiare un paese, per quanto non sei riuscito a cambiarlo esattamente come volevi, assolutamente no. Proprio molti, no. Molti di loro hanno continuato ad essere combattivi e i più feroci critici, no, del mondo in cui vivevamo. Però insomma te la sentivi calla, perché dici, cazzo, ce l'ho, quello che dicevi un po' prima, io ce l'ho fatta, quindi ce la posso fare anche una seconda volta, ce la possiamo fare. Erano, questa loro vitalità, questa loro sentisse la calla, era una cosa che ti riempiva. Ma in realtà molti mi dicono e mi dicevano, quelli che purtroppo io ce l'ho fatta, ce la potete fare pure voi. Esatto, ce la dovete fare pure voi. Parlavamo appunto di montagna, di ribelli, sì, della montagna. Ribelli della montagna, quindi di persone che in realtà facevano questa guerriglia, che come tutte le guerriglie c'aveva un giorno di fuoco e 60 giorni di attesa, camminata. Freddo, eccetera, eccetera. E ricordavamo anche alcune vicende qua, proprio dell'area. Beh, sì, per motivi professionali. Posso dirti la famosa battaglia di Monte Rotondo, che è stata una tra le più accanite, una tra le più combattive, una dove la Wehrmacht ci ha preso più calci nelle palle, se si può dire palle? Assolutamente. Ok. E tra l'altro poi è anche un punto di vanto, perché quella è una zona del Lazio dove comunque non è che si brilla, ci stavano alcune isole, c'è, cioè, ancora Poggio Mirteto, certo, Monte Rotondo. Per una predisposizione all'antifascismo, diciamo. Sì, ecco, però non è una zona, non è un'Emilia Romagna, no, del Lazio. Non, ecco, è una Reggio Emilia. Non è una Reggio Emilia del Lazio. Non c'ha quella tradizione. Quindi ancora di più il tanto accanimento che ci fu in quelle piccole isole risalta. Certo, certamente. Io l'ultima cosa, poi mandiamo quello che c'era e da mandare. Che c'era da mandare, i ribelli della montagna nella versione di Est, che è questa qui che la mandiamo, la dedichiamo, facciamo le dediche per radio, forse no, le fanno anche quella radio che inavvertitamente, ovviamente non si può nominare, che però fa gli speciali sul Tamagotchi, esatto. A Riccardino, che ha 10 anni e che è un appassionato proprio ascoltatore di Siamo i belli della montagna, vedi che si può fare, le nuove generazioni. Vai, Riccardino. Sentivo l'amore per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, abbiamo distente di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, vediamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Sarà la legge dell'avvenire. Sarà la legge della. We'll be right back. su comunisti della capitale. Aiuto ormai è la risposta, quando alzeremo su fracolina. Rispondiremo dalle barricate. Piombo Allora, tutto ciò, diciamo, in collaborazione con i suggerimenti che ci vengono da Marco, che non abbiamo detto chi sei. Vabbè, ma che sì, no, ma che ce frega? Vabbè, che mo ce lo frega, di, vabbè, mo lo dico. Dici, mo no, lo dillo dici. Te. No, lo dici te perché abbiamo mandato una sequenza di cose e poi mi ha detto "Poi mandiamo relax". Ecco, vedi. Ecco, vedi, suona, relax. Suona. Ma dico pure diciamo... fate gli abba. Sì. Come da drillino. Come da drillino, come... è impazzito qua, sembrava sì, Flipper. Sì. Allora, sì, dai, parliamo un attimo della sequenza che abbiamo mandato. Quindi, stiamo parlando ovviamente 25 aprile, ancora per pochi minuti, per una mezz'oretta. Stavo parlando di Resistenza, quindi abbiamo mandato le due versioni di Siamo comunisti della capitale. Sì. Quella banda Baciochi e quella Palcoscenico al Neon. Grande Palcoscenico al Neon. Poi abbiamo andato. Ma ci ha mai suonato? Guarda, ci avremmo dovuto suonare, poi per un certo periodo io sono dovuto andare via da Roma. Una situazione lavorativa, già ne parlai, caotica. È andata così. Però se il futuro ci dovesse. Ma guarda, io penso che oggi addirittura Ciccio lo volevo chiamare, vabbè. Ma mi piacerebbe per dirgli, tantissimo. Per dirgli, poi perché sono veramente 3 anni penso che non ci sentiamo, quindi avrei voluto chiamarlo per fargli gli auguri. Me ne dispiace perché ho zappato la terra. Questo non frega nulla agli ascoltatori, quello che abbiamo fatto io e te. No, forse quello che ha fatto te è stato interessante. Ma no. E alle ascoltatrici. Però insomma, le due versioni di Fischi al Vento, la versione antisocial degli Anthrax e poi Spara Iuri nostra. No, Spara Iuri vostra. Spara Iuri dei V38 Punk, una versione che l'abbiamo mandata per un motivo, perché per i tempi nostri siamo stati rapidissimi, cioè in 2 mesi abbiamo realizzato un piccolo video che chiunque avrebbe realizzato in 2 giorni. Vabbè, però nei paesi dell'est, insomma, burocrazia sovietica, siamo sovietica. Punk filo sovietico, quindi abbiamo la burocrazia sovietica e siamo lenti perché deve essere tutto approvato. E questa notte, cioè il 24, abbiamo rilasciato questo video sul nostro blog ufficiale www.p38punk.wordpress.com, che è una nostra nostro modo di celebrare il 25 aprile, come lo intendiamo oggi, cioè un 25 aprile contro il fascismo delle aziende, delle multinazionali, contro il fascismo delle privatizzazioni. Se mi consenti la citazione colta, non vorrei che pensassero che sono colto, in realtà ho letto pochi libri. Non è vero, perché è persona colta che non vuole far vedere che è colta, come giustamente... No, però, io i libri li vendo, ogni tanto mi capita di leggerli. Esatto, ma meglio, però così, solo per dire, meglio chi è colto e fa finta di non esserlo che chi invece non capisce nulla e fa finta di essere colto. Citazione quasi alla Catalano, se te ti ricordi il personaggio. Sì, no, poi citando pure Wilde, guardate quest'uomo, sembra un cretino, parla come un cretino, si muove come un cretino, ma non lasciatemi ingannare, è veramente un cretino. No, nel senso, qui volevo aprire una parentesi semiseria nell'ambito di quanto io posso essere semiserio. Volevamo con questo video, che è un montaggio, far capire quello che secondo noi oggi è la resistenza. Resistenza fatta anche di piccoli gesti, perché comunque purtroppo la sproporzione delle forze in campo è evidente, quindi può essere un boicottaggio, può essere una sanzione di piazza, può essere tante cose. Però che cos'è il fascismo? Il fascismo, appunto, citando questo uno dei pochi libri che ho letto, Hildebrand, il Terzo Reich, il fascismo è un movimento estremamente conservatore, non è un movimento rivoluzionario, è un movimento che la borghesia sabauda, terrorizzata dal Biennio Rosso, sponsorizza per mantenere coercitivamente lo status quo, lo stato di cose presente. Così è oggi, cioè le aziende ti privatizzano, ti esternalizzano, ti flessibilizzano, ti annullano qualunque tipo di mobilità sociale, o meglio, te la fanno vedere come l'osso da sventolare al cane, ma se la tengono bella lontana, e di fatto sono fascismo, tant'è che copiano anche la struttura oltre che la prassi dei regimi fascisti. E quindi per me oggi la vera resistenza è la resistenza contro le aziende, la resistenza del non andare a mangiare magari da McDonald's, la resistenza al non comprare un prodotto israeliano, la resistenza... Si fa pure nei posti di lavoro, dentro, contro le gerarchizzazioni, contro i tentativi che vengono fatti giorno dopo giorno in tutte le situazioni di lavoro, precario e non. Precario è più facile perché appunto semplicemente lì si basa sul fatto che domani non vieni a lavorare, punto, finisce la storia, no? Se sì, comunque fai qualcosa che è al di fuori della stupida sequenza che ti viene imposta, perché di questo si tratta, delle stupide sequenze, perché anche questo è il fascismo, in fondo è fascismo, l'imposizione, infatti, sì, di stupide sequenze, mantenere lo status quo, cioè totale, se vogliamo degli estremisti conservatori, sì, che sì, poi è la differenza del nazismo, cioè mettere nazismo in una maniera perversa, oscena, ma cambia lo stato presente della Repubblica di Weimar. Il fascismo invece impone la cristallizzazione della questione sociale nella borghesia, nell'Italia sabauda. Certo. Tant'è che poi il programma di Sansepolcro, fatto per abbindolare i ceti popolari, il giorno dopo che Mussolini riceve l'incarico, finisce nel cesso. Ma questa cosa invece del fascismo di oggi, perché proprio oggi nel nostro pranzo a Pizza e Mortazza usciva fuori un pochettino... riguardo proprio il fatto che, come dicevi te, il fascismo è quello che non è propriamente, è quello delle aziende, quello che viviamo tutti i giorni e che è imposto in qualche misura al di fuori del formalismo fascista vero e proprio, è forse il motivo per cui i fascisti a questa ultima tornata elettorale in realtà hanno avuto un risultato piuttosto scarso. Sì, poi non formalismo, ce n'era bisogno. Fuori dal formalismo fino a un certo punto, perché te chiedite perché al poveraccio che lavora dentro un McDonald's gli impongono di vestirsi come un coglione, cioè magari gli roderà pure il culo che a 40 anni deve mantenere una famiglia con quello stipendio e lo fanno vestire come un pagliaccio. È un formalismo che gli impongono, se vogliamo, una cosa anche per spezzare la sua resistenza. E secondo me oggi la resistenza si sta combattendo in queste ore in Francia, con la lotta dei vari ceti, a partire dagli studenti, dai lavoratori, dagli autoferrotrambieri, si combatte in Grecia, si è combattuta in Catalogna e spero che si ricombatta, cioè credo che sia un fiume carsico, credo che pure la questione catalana ritornerà alla luce. E noi in questo filmato abbiamo voluto parlare di, soprattutto di queste tre realtà. Essenzialmente, quindi andate a vedere su P38Punk, scritto così, .wordpress.com, oppure su YouTube, pure da cui poi sì, 25 aprile edition si chiama. 25 aprile edition. Spara Iuri 25 aprile edition. Nel frattempo noi abbiamo tagliato qua sopra, non so se lo vogliamo rimandare da capo. Rimandiamola. Rimandiamo da capo, dai. Stormy Six, questa qui. E poi Yabba. Ok. Thank you. ufficiali nei caffè. L'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa. Mentre vanno i Stormy Six, 23:40 minuti primi, 25 o'clock, Radio Onda Rossa, festa nostra il 25 aprile. Del 43, nel fango. Per noi che senz'altro non c'eravamo nel 43, non c'eravamo nemmeno per un bel po' di tempo dopo, però insomma il dopoguerra, il secondo dopoguerra, come si dice, lo abbiamo vissuto. E quindi Stormy Six, questa è Stalingrado, non si poteva non mandarla in questa nottata. Nel frattempo, allora, uno, ci arrivano messaggi giustamente così ai mezzi. Il problema è che ci abbiamo, e i mezzi che ci abbiamo, il problema è che come te siamo dotati di vecchi mezzi di apparati cellulari. Io ho un Nokia 8007, orgoglioso proprietario. Esatto, io avevo una cosa più recente che però si è sfasciata, quindi sono ritornato all'N73 e però ho perso pure la rubrica, quindi mi arrivano i messaggi da persone di cui non sospetto l'esistenza, quindi manifestatevi in maniera palesati. Sì, palesati. Quindi, data questa comunicazione di servizio, C'è una diatriba in atto. C'è una diatriba. Allora, abbiamo preparato delle cose abbastanza trash, perché appunto non si può. Già, ci hanno dato del serio. Del serio. Sì, è vero, il messaggio c'era pure voce di serie competente. Sì, sì, sì, competente sì. Sarà lei. E tre quarti da palazzina sua. Quindi noi dobbiamo immediatamente scadere nel trash, nella spazzatura. E ci chiedevamo se nel vario trash qualcuno gradisse mai Leopoldo Mastelloni. Però non lo prepariamo. Siccome è un'arma non convenzionale. Aspettiamo eventuali segnali di gradimento su Leopoldo Mastelloni. Abbiamo preparato una roba che io mi vergogno veramente a. Però ci parleremo. Ma io la vergogno ormai l'ho persa. Sì, sì, sì. No, vabbè, però vabbè. Lo dobbiamo fare perché appunto l'accordo era quello. È uno sporco lavoro. Vieni e imponi quella, te prepari la scaletta. Quindi la scaletta l'abbiamo preparata. Poi magari ritorneremo anche. Però su Leopoldo Mastelloni mai fermato, eh? No, sì, ho detto no, Leopoldo Mastelloni, fermiamoci un attimo a riflettere. Però chissà che vediamo, aspettiamo, cioè almeno abbiamo chiesto a Vox Populi Vox Dei, compagni e compagni, se Leopoldo Mastelloni può essere mandato a Radio Onda Rossa. Ci dispiace. Prego, troviamo la maniera per toglierla. Dai, da. Anche se loro venivano dalla Svezia, se non sbaglio, no? Ma infatti sì. E la Svezia è uno di quei posti dove invece sul piano musicale ci sta veramente il mondo. Poi fanno pure le patatine aromatizzate alla cipolla. Le polpettine svedesi. Esatto, che comunque queste qui da sole salverebbero dagli ABBA. Salverebbero dagli ABBA. Vai, allora fate in ABBAT, dai. Fate in ABBAT. Metti Scenderemo per le strade. No, ci abbiamo pronta invece un'altra cosa che però non abbiamo non la conosciamo, perché te avevi trovato sì, un passerotto non andare via, però in una versione un po' particolare dello stesso gruppo. Noi non l'abbiamo mai sentita, però è dello stesso gruppo, che è Non si può morire dentro. Vai, vai. Da capo. Sì. Leopoldo Mastelloni. No, la cosa incredibile è che la stessa persona che ha selezionato questa sequenza è la stessa che stamattina era al corteo della Resistenza. Oggi pomeriggio a fare un reading della Resistenza in piazza, e poi è venuto qua in radio. Si vedeva il sole, troppo sole. Sì, belle giornate, molto caldo, probabilmente è questo che ha influito. La bomba è sta io. Però a sorpresa, tutto a sorpresa, tutto assolutamente. Stiamo inventando finché qualcuno non ci ferma su Leopoldo Mastelloni. Perdonami, ma stai inventando, io mi tiro assolutamente fuori da questa correità. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh. Vamos a la playa. Todos con sombrero. El viento radioactivo despeina los cabellos. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh. Ma c'è un motivo su tutto, perché poi vi dicevo che poi alla fine, dando un incipit, poi lui va. Dici? No, questo riguarda la mia sovravvalutata istruzione, che è in storia e critica del cinema. Scrivendo pure per una rivista di cinema, vedo cose che voi umani non vedrete mai, ringraziando il cielo per voi, che ho scoperto che fine ha fatto Johnson Rigueira. Si è dato alla carriera del cinema horror, uscito un paio d'anni fa con un film Sangue Misto, dove lui diventa vittima di un kebabaro assassino che lo trasforma in un'enorme forma di kebab. Ho capito. In linea con quanto comunque suonavano, certo, con quanta demenzialità, penso. Se lo faceva prima che iniziassero a suonare, il kebabaro aveva la nostra gratitudine. Esatto. Al fine il mare limpio, no más peces hediondos, sino agua fluorescente. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Stupefacente, diciamo, una selezione stupefacente, nel senso che meno male che non c'è più Afini Giovanardi, esatto. Ecco. Ha a che fare con le stupefacenti. sempre quindi in versione 25 aprile, la Valle Nostra la difendiamo. A proposito di quello che dicevamo prima, vecchie e nuove resistenze. Ci sei. Io ci sono. E invece abbiamo preparato altre tre cose, sempre in versione resistente, quando manca un minuto al 26 aprile. Quindi iniziamo con i Rogue. Rogue, Indelebile, e poi via via. Vai. Dal disco Indelebile, appunto, Borghesi, e poi via via la stessa versione in altre tre versioni. E se ci state ascoltando, la resistenza siete voi. Il prossimo pezzo è dedicato ai bastasi borghesi che non fanno un cazzo tutto il giorno. Alza il passo. Inspira. Rappa. Spaccheremo il culo. Tutti noi ti spaccheremo il culo. sapere per te. Operai lavora per te. Voglio sapere cosa te li rende schiavi di te. Voglio sapere perché battendo lo lavori da me. Senza andare nelle mie fatiche, vuoi che se io ti spancherò il culo, che noi ti spancheremo il culo, tutti noi ti spancheremo il culo. Una dietro l'altra, aprile, quindi passato da pochi minuti, una festa nostra in attesa del primo maggio, che non è la festa del lavoro ma la festa al lavoro. In un mondo dove ancora siamo costretti in qualche misura, in qualche modo, hanno fatto una macchinizzazione incredibile, cioè dall'Ottocento fino a oggi, attraverso l'industria, la creazione delle fabbriche, la funzionalizzazione delle città, eccetera, eccetera. Sì, probabilmente nel secolo scorso si lavorava fino a 14 ore, lavoravano i ragazzini, tanti passi sono stati avanti, ma mi sembra che un po' stiamo al chiodo, cioè nel senso stiamo tornando indietro assolutamente. Anzi, gli orari di lavoro aumentano, il precariato aumenta, eccetera eccetera. Anzi, parlando in termini di lotta di classe, si può dire che il padronato ha trovato il modo di liberarci dal lavoro salariato eliminando i salari. Sì. Guarda te, appunto, i progetti di alternanza scuola-lavoro, in cui appunto è proprio quello. Gente, i ragazzini, proprio quelli che nell'Ottocento era diventò scandaloso. David Copperfield, cioè David roba Copperfield, da far rabbrividire Dickens. Oliver Twist, esatto. Eppure ecco, siamo qua. Come cazzo ho detto Dickens, si può? Si può dire. Li adoravo questi negli anni 90. Una delle cose che va più di frequente, tra l'altro, sull'automatico di Onda Rossa, quando si sente, quando non sento il Tamagotchi. Esatto. Devo dire che il tragitto tuo è particolarmente sfortunato, perché nel tragitto mio, che tutto sommato è parallelo, la radio c'è praticamente sempre, salvo in alcune curve, in alcuni punti dove invece ho percorso il... No, io a un certo punto, dire, basta, cessa radio. A Borgo Quinzio cominciano. Quindi, l'altro giorno, lo speciale perché le balene non suonano il jazz, e è arrivato fino praticamente a Tamagotchi, sì, e arrivo fino a Monte Rotondo, dove altra volta fino all'aeroporto dell'Urbe. Quindi compagni e compagne di Radio Onda Rossa, l'appello di Marco e P38 Punk, che ci hanno presentato, tra l'altro, forse pure quella bisognava mandarla, gli auguri per 40 anni, assai graditi, in un piccolo jingle. Tempo, Che facciamo sempre in tempo a mandare. Nel frattempo però abbiamo, prima che parta qualcos'altro, avevamo selezionato, penso, questa roba qua. Avevi selezionato. È il 25 aprile. È il 25 aprile, c'era il 25 aprile. E questa non è trash, secondo me è una versione bellissima. No. Non sto scherzando, sono uno dei miei rari momenti di serietà. Vai. Parte. Ci metto un po'. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi, di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti, di nuovo come un tempo sopra l'Italia intera. E soffia la bufera, soffia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che son stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani, vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi. È sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre quell'eguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Ovidio Franchi e voi Marino Serri, reverberi e parioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori con noi a cantar bandiera rossa, bandiera rossa. E perché con Marco qui discutiamo, parliamo un po' di tutto, non andiamo d'accordo proprio su tutte le faccende, però su una cosa andiamo d'accordissimo, cioè sul personaggio splendido che è Danilo Fatti. Danilo che è anche un amico poi, tra l'altro, quindi io lo saluto, ciao Danilo. Geniale, splendido, assolutamente, uno dei, veramente una persona punk, perché... Ah. È uno di quelli che ti spiazza. Guarda, in qualsiasi condizione spiazza tu. Io ti dico una cosa: di norma, conoscendo, suonando, sia per lavoro, sia suonando, sia scrivendo su una lista di cinema, sei portato a conoscere nella mia posizione tantissime persone. E il più delle volte vale il detto che dice: non dovresti mai conoscere le persone che ammiri. Danilo è una delle eccezioni che confermano la regola, perché Danilo, e qui lo voglio proprio dichiarare, non è come io mi aspettavo che fosse. Danilo era esattamente come io volevo che fosse. Sì, sì, sì. Ripeto, è spiazzante. Lo abbiamo avuto al concerto della radio quest'estate, al concerto, alla festa, al concerto per la festa della radio dei 40 anni, e ne siamo molto contenti. Tra l'altro stiamo complottando noi una cosa con Danilo di cui non vi anticipiamo nient'altro, se non che la stiamo completando. Ci stanno al solito dei progetti di cui non vi abbiamo detto nulla, noi li sappiamo, ce li teniamo per noi perché siamo riservatissimi su queste cose. E altro che, come si chiamano questi qui che ti dicono i film, mo adesso i spoiler, no? Per me si chiamano stronzi. Vabbè, ma poi anche si può dire no, stronzi. Sì, si può dire. Però anche no, in finale, cioè, come quello che ti dice il risultato della partita, perché lui. No, vabbè, ma allora la partita te la vedi in televisione, non paghi, a meno che non sei no, uno malato. Che l'avevano vista prima perché era. L'hanno mandata in differita mondiale, tipo ste robe così. Vabbè, no? Ma tanto non hai pagato. Se io invece vado al cinema, no? Due secondi prima. Ah, ma lo sai che muore Luke Skywalker? Vaffanculo. Certo, certo. No, no, io ti ammazzo. Va bene. Sono quelle cose che. Dopo che hai comprato già il biglietto. Stimolano appunto. Anche lì potrebbe nascere una resistenza, insomma, su queste cose qua. E veniamo all'altra parte della festa della radio, ritornando al 25 aprile, ritornando forse alla cosa che dovevamo mandare fin dall'inizio, non l'abbiamo mandata, ovviamente un po' l'inno della resistenza, forse a posteriori, perché poi la resistenza è quell'oggetto strano per cui noi l'abbiamo un po' detto all'inizio. Ragazzi, senza sapere, questi sono dati statistici, cioè ci sta scritto proprio che, come c'era, per dire, che la guerra in Vietnam la facevano i pischelli di 19 anni, la guerriglia in Italia, la guerriglia partigiana, la lotta partigiana, l'hanno fatta mediamente dei ragazzi, c'era anche della gente più grande, degli intellettuali, delle persone che hanno combattuto in età già avanzata, ma grosso modo si trattava di moltissimi poco più che adolescenti, ragazzi che scappavano proprio letteralmente dalle famiglie. Forse si diventava più grandi prima, cioè a 20 anni eri già un adulto. Beh, diciamo che quando te mandavano in Russia con le scarpe di cartone, tornavi molto cresciuto. Molto cresciuto, molti erano tra l'altro appunto ex combattenti, no? Ex militari che di fronte appunto all'esercito sabaudo, perché di questo si trattava, insomma, l'esercito del regno d'Italia. Del suo re, che si sfaldava perché ritornati in Italia dopo l'armistizio appunto non c'erano più riferimenti, e quindi la maggior parte di loro che avevano vissuto, come dire, queste esperienze passarono dalle fibre, però furono pure molti altri che non erano militari e che senza scendere appunto poi nei dati statistici, quindi ragazzi giovani. Ma tiro, guarda, la resistenza tirò fuori il meglio persino da categorie insospettabili come preti, sì, per esempio. O addirittura, penso, uno dei pochi casi nella storia, addirittura i guardie, i carabinieri, salvo d'acquisto. Sì, certo, la vicenda di salvo d'acquisto, ovviamente poi celebratissime dopo, perché appunto quando non si poteva dire che era un proletario, poi tutto sommato, che erano poi... Era appunto questi, c'erano degli intellettuali, c'erano, ma soprattutto c'erano appunto militari, proletari, operai delle fabbriche, contadini che entrarono nelle file delle resistenze. Bisogna dire anche, come dici te, di un po' la compagine antifascista era molto larga, c'era ovviamente la maggioranza che era di sinistra, quindi del Partito Socialista, del Partito d'Azione. Sì, no, il tributo più alto, oltre il 50%, Brigata Garibaldi, certo. Poi c'erano anche le brigate anarchiche, nessuno ne parla mai, assolutamente. Però insomma diedero anche loro il loro altissimo tributo di sangue. Di sangue, anche tattico-strategico. Quindi un po' tutti parteciparono a questa cosa. E poi ci fu il dopoguerra, ci fu la commemorazione della resistenza, il fatto che diventasse appunto una festa, quella del 25 aprile, diventasse una data da commemorare, e lì ci sarebbero da scrivere altri libri, cioè di come questo fatto storico sia stato in realtà poi ingessato, istituzionalizzato. La grande idea diventa istituzione. Sì, esatto. E di lì sono passate delle enormi porcate, degli sfruttamenti proprio del brand Resistenza, di cui che hanno fatto sì, perso no, quello che era il valore originario e rivoluzionario, per quanto sia. Il caso più pietoso ce l'abbiamo avuto l'anno scorso, quando il governo ha cercato di arruolare, per fortuna, con scarsissimo risultato, poveri partigiani per il loro alla buffonata sì, del sì, referendum sulla sì. Costituzione. Sì, oppure quando a un certo punto, proprio perché si era troppo sbilanciati con questo 25 aprile, ci si è inventati le varie il giorno del ricordo le cose proprio antistoriche, perché appunto poi in realtà basta fare uno studio storico sì, serio sì, no, basta per capire vedere le dimensioni di quello, le dimensioni e la natura della questione, che nemmeno voglio illuminare. Basta vedere pure chi erano al 90%, cioè era sì, pure un 10% sì, di quindi persone creando innocenti, facendo mescolando nel torbido, sapendo di mescolare nel torbido, proprio per andare a tirare fuori quei lati oscuri, quei dubbi, ma, quelle cose. Guarda, noi italiani siamo maestri in questo. Io guarda, voglio dire, poi si non è fatta più molto cinematografia, molta sì, cinematografia, sì, insomma, molta narrazione. C'eravamo tanto amati, ma poi giuro, non rompo più i coglioni, però l'ultima volta che mi hanno fregato a votare un ballottaggio, la prima e l'ultima volta, ballottaggio Fini Rutelli. No. Che cazzo, io non posso votare Rutelli. Ma su Fini. All'epoca c'era ancora l'MSI. Quindi tutti che mi rompevano le palle, lo so, te fa schifo, ma che fai? Mandi il fascista, fai il voto antifascista, fai il voto antifascista. Vado a votare, Rutelli, mi tappo il naso, mi attacco la flebo di Malox direttamente in dovena, lo voto e questo 6 mesi dopo, eletto col voto degli antifascisti, cosa fa? Mi riabilita Bottai, non uno stronzo qualunque. Bottai, grande intellettuale, e ci voleva un grande intellettuale per pensare alle leggi razziali. Quello era il clima per cui pare che bisognava far così. Poi vabbè, Veltroni, piazza che era? Piazza sì. Paolo no, di chi? Di sì, sì, però quello delle Cervella. Esatto, ma infatti è proprio questo. Paolo Cervella si chiamava? Sì, sì, sì, però si faceva pure il parco a Valerio Verbano. Quindi è ancora peggio, se vuoi, è ancora peggio, perché si tendeva a mettere sul stesso piano, come se fosse appunto come se fosse un piatto della bilancia. È il motivo per cui poi ci stanno giornali vendoli, giornalai, quello che te pare, come panza, uomini di estrazione, di cultura, di percorsi completamente diversi, completamente, stiamo parlando di numeri completamente diversi, cioè è veramente che se venisse un marziano, un extraterrestre, vabbè, che cazzo state a fare qua, cioè di che state parlando, di cosa, senza senso. Però gli è servito, perché appunto poi siamo arrivati al fascismo istituzionale di oggi, quello di cui parlavi te all'inizio della trasmissione. Dicevamo, e arriviamo al dunque, ragazzi, post resistenza, l'inno della resistenza dobbiamo mandare, però in una versione pure questa qui, mezza punk, mezza stravolta, troppo figa, l'abbiamo avuti anche loro alla festa della radio lo scorso anno, proprio insieme alla stessa data di Danilo Leningrad. Fart, 44 Leningrad, e questa è bella, ciao. Dai. So, also, ihr steht noch, ja? Das heißt, die Leute, die noch stehen, die können auch noch tanzen? So, okay. Perfekt, perfekt. Dann spielen wir jetzt einfach mal die Heimat. Okay. Mit Mandoline? Mit Mandoline. Mein kleines Baby, die Mandoline, die ist in letzter Zeit ein bisschen bockig. Ich muss die mal streicheln, damit die überhaupt geht. Das ist aber gut drauf. Okay, sie ist etwas verstimmt, aber das ignorieren wir jetzt einfach. Heimat, ein schönes Stück zum Abtanzen. Musik. Najdu já na postroju ryčku. Zaru jada na krut peršol. E che i 44 44 Leningrad siano dei burloni, questo è un dato appurato, però bella ciao, ci hanno fregato, la traccia 0 l'hanno chiamata 1, la traccia 1 l'hanno chiamata... C'è ortodossa, come il Natale ortodosso che c'è dopo. Ci hanno fregato, quindi bella ciao parte adesso, insomma. Almeno questo abbiamo, quello che abbiamo dedotto, va? Sentiamo. Brusio, brr. Uno che capisce il cirillico e vuole venirci a dare una mano. Eccola, è lei. Poi ci chiamano da Piazza del Popolo, però si stupivano e ci domandavano come mai il popolo non c'è a Piazza del Popolo. Perché? Perché innanzitutto a noi il popolo è un'entità astratta che non ci piace, a noi ci piace caratterizzarla economicamente, cioè c'è chi diceva la chiamava proletari, c'è chi la chiamava poracci, cedi subalterni, cedi subalterni, inventatevi quello che vi pare, sfruttati. Però ma questa una... non è bella ciao? Sì, sì, sì, questa è bella ciao, è bella ciao, bella ciao. Bella ciao con rifatta con a il me pare Jimmy Somerville. Esatto, esatto, ma è certo, è certo. È la, il motivo di Jimmy Somerville con il testo di Bella ciao. Vai. Ma non erano mai, non era meglio Leopoldo Mastelloni? No, no, no. Da capo, Bella ciao, 44 Leningrad, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. We'll be right back. освободитель, справедлив. Questa è la voce di Tiziano Lo Conte e dei Roselux. E questa è la settima traccia tratta da Feritoie. Brigata partigiana Alphaville a mio padre, e invece noi la dedichiamo ad Ale, quello della marcia indietro. Aspetta, vai. Grande Alessandro, ci ho parlato 5 minuti, ma è stato illuminante. T'ha inquadrato tutto qual è il problema. Sì, no, ma è vero, è vero. La marcia indietro è una prima al contrario, quindi è una marcia potente, perché certo, fa muovere, esatto, un mezzo. Esatto. Non ci avevo mai pensato a questa prospettiva. Però al contrario e sforza il motore. È un discorso molto lungo che affrontiamo con Ale da tanti anni ormai, uno dei nostri affezionati ascoltatori. E adesso fuori onda ti dirò anche altre nicchie. Nel frattempo, dicevo, questa è Tiziano Lo Conte, questi sono i Roselux, e questa è Brigata Partigiana Alphaville, tratta da Feritoie a mio padre, dedicata al padre di Tiziana, quindi da capo con il massimo rispetto. Thank you. Allora, me l'ha chiesto come fammelo a me come regalo di 25 aprile, quindi diciamo ci ha messo un po' in imbarazzo. Non solo, ma poi tra l'altro quando uno, cioè alti e bassi, vuoti e pieni, è proprio di questa cosa, si parlava proprio della resistenza, di come fosse fatta proprio geograficamente di vuoti e di pieni, no? Di luoghi dove la resistenza attecchiva e di luoghi invece che erano in mani magari per repubblichini. Esatto, magari per motivi strategici, perché erano i passi principali, cioè i partigiani comunque stavano in periferia. Vuoti e pieni. Quindi stasera proprio questa roba qui, cioè degli alti clamorosi, sì, con delle cose bellissime, anche nel senso trash. E dei bassi, che bisogna prendere una trivella. Sì. E qui io prendo un impegno, non diciamo fino alla fine il nome. Se no, da qui alla fine del pezzo qualcuno telefona e dice il nome del gruppo, io... Sì, ha vinto il trasmettitore della radio. Più presto. No, io alla festa della radio gli offrirò una birra, cioè prendo li, pago io la birra, però il primo che la indovina, se qualcuno la indovina, vai, questa è veramente, siamo al peggio, non me veniva. Posso chiedere scusa a Tiziana per sì, no vabbè, ma io chiedo pure partito. Scusa a mamma che quando lei stava in cucina guardavo questa roba su Video Music. Ecco qua. Oh, siamo rimasti un po' basiti, dobbiamo dirlo. Non rimettermi Leopoldo Mastelloni. E tra l'altro lo 06 49 17 50 sta muto perché non ve li ricordate, noi non ve lo diciamo. E fate bene. Avremmo intenzione e vogliamo fortemente che rimangano nell'oblio. Diciamo solo che sono annoverati come una delle 10 cause del crollo dell'Unione Sovietica. Che ci è andata a ripescare, eh? Incredibile. Basta, rimettiamoli. Ho avuto un'adolescenza difficile. Rimettiamoli, eh? Da dove erano venuti e rifacciamoci un attimo una cosa, una cosa seria e importante che bisogna fare. No, ferma, tu partite la sigla, no? Ho sbagliato tutto, eccolo, questo deve partire. We build a wall to keep us free. We build a wall. Se ho cuore sono troppo poche, provate voi a lavorare e troverete la differenza di lavorare e di comandare e sentirete. Se non la smetti di arrestare i lavoratori, e noi faremo come a tutte piazza Loreto t'ammazzere, e noi faremo come a tutte piazza Loreto t'ammazzere, e noi faremo come la zia, suoneremo il campanello, innalzeremo pace e martello e grideremo la masse tu. Suoneremo il campanello, innalzeremo faccia e martello e grideremo viva Stalin, innalzeremo faccia e martello e grideremo viva Stalin. Abbiamo veramente sforato, ma d'altronde era la il festa 25 o'clock, era assolutamente la festa nostra. Abbiamo cercato di spiegarlo, pure come questa cosa importantissima come il 25 aprile non può essere buttata a coglionella, perché non è questa l'idea che volevamo trasmettere, ma che la coglionella, cioè il fatto di cazzeggiare sulle cose, non le svaluta affatto. No, guarda, sempre può darne una lettura invece, appunto, perché altrimenti ingessarle. Guarda, sempre senza rischiare di voler sembrare una persona colta che non sono. In realtà questo stava scritto sul libro a fumetti Eroi in pantofole che leggevo quando ero piccolo, però c'era una frase di Socrate che diceva: che c'è di male nella risata? Certo. Non si può essere serissimi anche ridendo. Assolutamente sì, ne siamo convinti, ed è una delle direttive principali del nostro modo di voler trasmettere, dove per trasmettere non si parla semplicemente di mezzo radiofonico, ma si parla di qualcosa di un pochino più articolato. Allora, ovviamente i saluti a tutti li facciamo, sotto la nostra voce va Julian Coppa, quindi un'altra di quelle lotte che furono fatte contro un'altra forma di fascismo, contro quello che era il neoliberismo nella sua forma iniziale, originaria, embrionale, quella della Thatcher degli anni, della fine degli anni 70 e dei primi anni 80, cui Julian Kopp fu uno dei più ostinati persecutori che tra l'altro do anche una perla che pochi sì. Proprio in quel periodo forse abbiamo la copertina più politicizzata dei dischi degli Iron Maiden, Killers, sì. Dove c'è quest'Eddie con un'accetta che nella versione estesa della copertina fa a pezzi la signora Thatcher. Ah, vedi. Julia Kopp invece ha fatto non di più, perché insomma, però ha fatto un disco commemorativo quando è morta la Thatcher, dicendo: non ce ne dispiace affatto, siamo molto contenti che siamo. Beh, insomma, hanno fatto una festa da paura. E insomma, sì, voglio dire. Una risata l'ha seppellita. Sì, una risata l'ha seppellita. E Julia Kopp rimane sempre un faro per noi illuminante di tutte le scalette di 25 O'Clock. Invece abbiamo concluso con, prima di Julia Kopp, con Se 8 ore vi sembra poche, delle mondine di Novellara, che dicevi non che erano quelle di Bentivoglio. Non erano quelle di Bentivoglio, ma che, dallo che hai sentito il pezzo, mo cercherò dischi in vinile, anzi se qualcuno sa indirizzarmi, io colleziono questi vinili, quindi speriamo che l'abbiano fatto. Se c'è su YouTube probabilmente qualche registrazione ci sta. Abbiamo sentito Sotto Ore mi sembra poche perché il 25 aprile abbiamo passato, dopo Natale c'è l'Epifania, quindi dopo la Liberazione c'è il primo maggio, quindi ci rivediamo nelle lotte del primo maggio per il lavoro, per il non lavoro, in giro per le varie, i vari festeggiamenti eccetera che ci stanno, e dai, è così, bella a tutti e a tutte. Ci rivediamo, penso ci risentiamo noi il 2 maggio, se ci regge la pompa di essere di nuovo qui. E speriamo che ci sia anche Leopoldo Mastelloni. Tra l'altro, vedi, accidenti, dovevamo, no, Leopoldo Mastelloni, no? Dovevamo pure invece dire due cose, ci aiuterai te a dirle se vai sul sito della radio, ci sei già dentro. Non aspetta, sì, ci sono autodistruzione. Oddio, ho schiacciato il pulsante di autodistruzione dalla radio. No, è solo del PC quello là, dai, non mettiamo allarmi. Però il PC ormai è perso perché ci ha messo le mani, quindi chiamiamo. Dunque no, ci stanno queste due iniziative. Queste due iniziative che, a cui non dovete mancare. Vengo di là. Vieni di qua. Six spent years locked up discovering a justice which was racist, blind, unable to admit its mistakes. Some, like thousands of homeless people begging outside British train stations. Viaggio al termine della notte, liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Louis Ferdinand Céline. Elio Germano voce, Teo Teardo chitarra live electronics, Laura Bisceglia violoncello, Ambra Chiara Michelangeli viola, Elena De Stabile violino. Nuovo cinema Palazzo, Piazza dei Sanniti 9, domenica 29 aprile, ore 18. Serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Ingresso a sottoscrizione. E poi, questa abbiamo tempo per raccontarla anche più tardi. Avevamo pure preparato qualcosa di Pax Armata, che è una delle nostre band che sovente mandiamo qui. Vai! Roma Urla, Alternative Fest. E oddio, io questi loghi così strani non li so leggere. Alma Irata, Pax Armata, Barbed Wire, che tra l'altro è omonimo di un gran film. Sabato 12 maggio, ore 21, ingresso 5 euro al The Frag. E sempre, anche in questo caso, ingresso a sottoscrizione in favore di Radio Onda Rossa. Detto questo, il saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci hanno ascoltato in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, famigerati, centri di detenzione per migranti. qualunque sia la loro natura, che è comunque quella di forza lavoro rinchiusa. Il palinsesto della radio finisce qui, almeno quello in diretta. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Ario, che vi tratterrà con le sue repliche e con le sue selezioni per tutta la notte. Si riprende domattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, a cura Justice. Ai ai ai. Di niente da venne. And collective amnesia. Poi i redazionali della mattina, poi. Tre serate del giovanotto. Vedi, sì. Un saluto al fantasma. Che invece. Saluto al fantasma. Ciao fantasma. Che sta senza macchina, quindi non gliel'ha fatta bene stasera. Clean. The bullies and the cowards are ganging up. Invece non salutiamo niente da vende, perché era andato a vedere il concerto di Jovanotti, ci ha detto. Ma. Tre di seguito. Tutti e tre. Lui tutti e tre l'ha visti. Qualcuno compreso aiuti. Il 25 aprile, ha festeggiato il 25 aprile con Jovanotti. Mamma mia. Ma dimmi te. Allora, dicevamo, poi il pomeriggio ci sta a tutta scena e poi si riprende con Attica Blues, vado a memoria, Le Schiena del Sol, e vogliamo salutare per Le Schiena del Sol chi salutiamo, la conduttrice Le Schiena del Sol, Marta. Dai. Racist, blind, unable to admit its mistakes. Il Mezzedes e poi i cuginetti d'Apostasia, che magari si ricorderanno loro e metteranno loro spottini per 38 panche, tanto sono cuginetti nostri, insomma, lo fanno volentieri. Magari sono pure Leopoldo Mastelloni? Non lo so, glielo possiamo chiedere al buon Fongis e al buon Paizzo, ma dubito che lo facciano. Bella a tutti e a tutte, dai, ci sentiamo mercoledì prossimo. Se buona libertà. Dai, buona libertà a tutti e a tutte. Is punishable in the courts. A bigoted. Dreams. begin to